Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, vigilia di Italia-Montenegro stasera in campo a Lecce. Nella vigilia stamane c'è stato l'ultimo provino azzurro con Lippi che ha effettuato un paio di esperimenti. Probabilmente dovrebbe essere confermato lì Natale, perlomeno in partenza, con un subentro Giuseppe Rossi successivo e poi a centrocampo l'impiego di Aquilani. A proposito di Montenegro, sentiamo la vigilia di Lippi. Scuola slava che è sempre stata di grande qualità, di grande genialità, di grande fantasia e indubbiamente alcuni giocatori di questa squadra le possiedono e noi dobbiamo stare attenti a queste caratteristiche, ma nello stesso tempo siamo l'Italia e penso che abbiamo la forza tecnica, morale, psicologica per battere il Montenegro in casa nostra. Questo dice il pronostico, così facendo Lippi arriverebbe ad eguagliare il primato di Pozzo di cui già si parlava ieri, cioè di 30 gare consecutive alla guida della nazionale senza sconfitte. Poi i risultati in realtà sono diversi tra loro, ma questa imbattibilità sarebbe raggiunta. Sentiamo prima che cosa ne dice a proposito scaramanticamente proprio Lippi. Oh Madonna ragazzi, questa qua, cioè, chi ti ha chiamato? Al telefono, devo fare una telefonata. No, ho capito, ma non voglio parlare di questa cosa, non se ne parla mai di queste cose, di quello che potrebbe essere, no. Beh, insomma, diciamo un frammento folcloristico, insomma, mi pare di capire che non ne voleva sentir parlare. È certamente spettacolare, no? come inciso. È ovvio che poi è seguita una disamina, ma forzata, in cui Lippi più che parlare ascoltava. Supponiamo che stasera l'Italia chiuda in battuta contro il Montenegro, che non dovrebbe essere una grande impresa, anche se le cose si dicono sempre dopo. In questo caso Lippi arriverebbe ad eguagliare, vi ripeto, Vittorio Pozzo, mitico commissario tecnico durante guerra, a 30 partite consecutive senza sconfitte, con qualche differenza comunque, date dall'epoca, da un calcio diverso. In ogni caso, in quelle 30 partite Pozzo vinse 24 volte, mentre Lippi 17, quindi 17 e 13 pareggi contro 24 vittorie e 6 pareggi. La nazionale di Pozzo segnò 75 gol contro i 48 di quella di Lippi, più quelli di stasera evidentemente, no? Ancora da conteggiare. Ne ha subiti molto meno l'Italia attuale, 18 contro 29. Allora erano tempi di grandi attaccanti che oggi in questo momento sinceramente non ci sono, tant'è vero che il capocannoniere di Vittorio Pozzo in quelle 30 gare fu Silvio Piola con 22 gol, mentre l'attuale è Girardino con 9. Tutti i numeri che desumono da una tabella pubblicata da 24 minuti, il pomeridiano del Sole 24 Ore in distribuzione gratuita da lunedì al venerdì a Milano e a Roma. Sulla vigilia di questa partita l'opinione del capitano Cannavaro. Sono forti, sicuramente sono diversi dagli attaccanti che abbiamo incontrato a Sofia, sono attaccanti che magari cercano più la profondità, ci sarà più da sudare. Comunque siamo in casa e magari dobbiamo usare qualcosa in più, anche perché comunque vogliamo vincere, vogliamo i tre punti. Una difesa che si è molto ben comportata nella partita in trasferta di Sofia, stasera forse troverà dei clienti di minor nome ma di maggiore sostanza. Non c'è lo spauracchio Berbatov, ma mi pare che Vucinic e Jovetic siano una coppia da, insomma, a cui dedicare qualche attenzione. Immagino la penserà alla stessa maniera anche l'altro centrale della nazionale azzurra, Chiellini. In Bulgaria anche un pareggio non era così da buttare, mentre mercoledì comunque bisogna vincere perché sennò il pareggio poi di Sofia diventa un risultato negativo. Siamo consapevoli di questo e scenderemo in campo solo per vincere mercoledì. Riprenderemo il discorso sull'Italia più tardi con alcuni risvolti, ascoltando anche il questore di Lecce, perché è una vigilia attesa dopo i fatti di Sofia ed è una partita in cui occorrerà, dal punto di vista delle forze dell'ordine, occorrerà un filtro di primissimo livello e poi comunque sperando di non ripetere certi brutti spettacoli. Prima dell'argomento del giorno, che insomma arriverà tra pochi secondi. Mi piacerebbe ancora questa anticipazione di un'intervista a Cesare Prandelli che è in edicola su Famiglia Cristiana. Tra le tante cose interessanti che Prandelli ha detto, mi pare ci siano in particolare queste. Dopo tanti anni mi stupisco ancora delle discussioni sul nulla. Attorno al calcio italiano c'è gente che campa di polemiche rinfocolate all'infinito, si sbaglia sempre, se giochi bene ti dicono che non sei cinico, se sei concreto che manca lo spettacolo, ed è, mi pare che ci si riconosca, no, in questo. In Spagna e in Inghilterra si parla per 5 minuti dopo la partita e poi ci si dà appuntamento allo stadio la settimana successiva. Forse, e qui arriva una fase un po' utopica e non so fino a che punto condivisibile, forse servirebbero 2 anni senza scudetti, senza promozioni e retrocessioni, giocando solo per il piacere di giocare. Riportando i bambini allo stadio sarebbe un modo provocatorio di tornare a una cultura che sappia riconcentrarsi sul calcio giocato. Cambiamo argomento, cambiamo paese e, come promesso sin da lunedì, e ridando il benvenuto a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buongiorno. Proviamo a vedere, cioè proviamo a documentare, con l'aiuto di Marco per l'appunto, come nemmeno in Premier League, e cioè nel campionato attualmente di gran lunga più bello del mondo, sia poi tutto oro quello che luccica. Perché? Perché si moltiplicano le voci dall'UEFA alla FIFA, da Platini a Blatter, ma tanti altri ancora, di chi dice la Premier League sta vivendo nettamente al di sopra delle proprie risorse. I club inglesi sono indebitati fino al collo e quindi è ora di metterci le mani, perché non si è ancora parlato forse di concorrenza sleale in questi termini così crudi nei confronti degli altri club europei, però ci siamo sostanzialmente vicini, mi pare. Se ne è parlato soprattutto con riferimento, diciamo, alle razzie di giovani calciatori che spesso i club inglesi hanno fatto, anche perché hanno a disposizione dei budget limitati e possono sostenere anche un investimento, insomma, in larga scala su tanti giovani. Gli effetti della crisi finanziaria, ne abbiamo parlato lunedì per quanto riguarda il calcio italiano, sono in qualche modo esplosi in riferimento a quello che il mondo del calcio, proprio per i debiti che molte squadre della Premier League hanno accumulati. Si parla in generale di 3 miliardi di sterline, più o meno 4 miliardi di euro, di cui addirittura 2/3, insomma, concentrate soltanto sulle compagini della Premier League, insomma della massima serie. Debiti con le banche, debiti che le banche, travolte dai crack di borsa di queste settimane, in qualche modo, insomma, dovranno scontare alle società, insomma, non potranno più concedere, diciamo, dilazioni. Ecco, il punto di partenza dell'altro giorno, parlando dell'Italia, era per l'appunto quali aggravamenti avrebbe portato nella situazione debitoria di alcune società italiane. Avevamo fatto il caso emblematico della Roma nei confronti di Unicredit, queste disavventure economiche o disgrazie economiche di questo periodo. Vale quindi la stessa cosa anche per l'Inghilterra? Più o meno, anche se per l'Inghilterra c'è un discorso, secondo me, che deve essere più specifico e legato al tipo di debiti che hanno le singole società. Non tutti i debiti sono uguali, potremmo dire. Certo. Si è creato in un grande mercato negli ultimi anni nella Premier League, proprio per l'appeal che hanno le squadre inglesi in tutto il mondo, e sappiamo che uno dei problemi denunciati da Blatter in questi giorni è quello dell'eccessiva concentrazione, diciamo, delle proprietà delle squadre inglesi in mani straniere, insomma. Giustamente. Un esempio classico di questa, diciamo, combinazione riguarda proprio il West Ham, la squadra che ha appunto assoldato Zola come allenatore. Il proprietario della squadra di Zola è un islandese, un signore che si chiama Gudmundsson, sì, e che ha perso, diciamo, si calcola circa 300 milioni nel crack della banca islandese di cui era uno tra i maggiori proprietari. In Islanda, insomma, tutte le banche sono state nazionalizzate perché è piene di debiti, e il signor Gudmundsson, appunto, ha perso 300 milioni. Il West Ham quindi dovrà rinunciare alla prossima campagna acquisti che era stata promessa a Zola, ma per esempio andando a spulciare un po' nella situazione specifica del West Ham, è venuto fuori che ha una rosa il West Ham di 35 giocatori. E quindi? E sembra appunto un po' eccessiva. Diciamo che la mala gestione non è un'esclusiva nostra. Anche no? Perché cominciamo appunto a trovare spunti di consolazione. Appunto, nell'ultimo anno si calcola che gli ingaggi, gli stipendi pagati ai calciatori in Premier League siano cresciuti del 12%. Ora se può sembrare una cifra, una percentuale bassa, ma se si tiene conto che insomma l'inflazione dovrebbe essere nell'Unione Europea controllata intorno al 2%, siamo a 4%, di fatto gli stipendi sono cresciuti tre volte tanto anche perché, esatto, tre volte tanto, partendo già da basi non mica tanto serie. Proprio a proposito di stipendi, stamattina, sì, così voliamo in Germania, sì, qualche minuto fa è uscita un'agenzia relativa alla Bundesliga. Il direttore generale della Lega Calcio tedesca, Christian Seifter, si è prodigato a rassicurare che la Bundesliga non subirà gli effetti della crisi finanziaria. Ha detto: anche noi ci troveremo in acque agitate senz'altro, ma la nostra barca è in buone condizioni. E ha citato un dato, se vogliamo si lega a quello che stiamo dicendo. Dice: i club in Germania spendono per gli ingaggi dei giocatori il 40% delle entrate. A differenza di altri paesi, faceva riferimento proprio alla Premier League, dove si spende il 60-70%. Quindi questo ci fa capire come la gestione oculata di alcune squadre, per esempio italiane, che investono sui giovani, può avere, ecco, una sostanza non solo economica, ma anche, diciamo, di tenuta, cioè, economica per la singola squadra, ma anche di tenuta dell'insieme, dell'intero sistema. Serve, certo, a calmierare, diciamo, quelli che sono, certo, gli ingaggi. Tu ci hai fatto prima l'esempio di Gudmundsson. L'Islanda, è vero, è la nazione che ha avuto il tracollo forse peggiore, no, sino ad ora, da questo simil 29 che sta travolgendo le economie mondiali. Però mi pare aver letto da qualche parte che anche il signor Abramovic una tostata seria patrimoniale, sì, forse l'ha avuta. Sì, difficile dire quanto abbia perso, si parla di un miliardo di euro, qualcosa. Beh, insomma, diciamo non proprio nocciolini. È un patrimonio 15-20 più o meno, insomma è difficilissimo non capire. Dovrebbe, quanto... Al momento non dovrebbe partire, però senti, domando questo perché vedo che il Chelsea, secondo una tabella recentemente aggiornata, ha 793 milioni di euro di situazione debitoria. Ora, sì, è vero che se Abramovic mette le mani in tasca tutto si risolve, però si risolve o non si risolve? Si risolve nel senso che paga Abramovic e Abramovic è libero di pagare. I debiti infatti che ha il Chelsea sono prevalentemente nei suoi confronti, nei confronti, diciamo, delle sue, sì, società. E riprendiamo qui il discorso che abbiamo fatto lunedì scorso: o ci sono regole che in questo momento sono soltanto evocate sulla tenuta contabile delle squadre, cioè o si dice le squadre che si indebitano non potranno partecipare alle coppe europee, come ha paventato Platini nei giorni scorsi, oppure se c'è una proprietà che vuole spendere dei soldi è liberissima di farlo. E tutti gli altri discorsi, se non si fissano, ripeto, regole giuridiche e fiscali e contabili severe, sono soltanto moralistici. Però l'esempio Abramovic ci riporta a quel discorso che facevo prima sulla qualità dei debiti. Non tutti i debiti sono uguali. In Gran Bretagna, ma non solo, si è sviluppata negli ultimi anni questa moda di acquistare le squadre a debito. Userò un'espressione tecnica, si chiama leverage buyout, è semplicemente questo: si va in una banca e si dice: io voglio acquistare il Liverpool, prestatemi 400 milioni di euro. La banca presta i 400 milioni di euro, la garanzia è il Liverpool stesso. Chiaramente il Liverpool in quanto società avrà 400 milioni di debiti nei confronti della banca che dovrà pagare. Il Manchester United ha per esempio 38 milioni di interessi da pagare ogni anno su un debito che supera i 750 milioni. Ogni anno, 38 euro. Milioni di euro sono, per capire ogni tanto, insomma, per fare un riferimento ogni tanto antico, anche se non si dovrebbe più, sono 75 miliardi di lire l'anno di interessi. Grosso modo, ha un debito, si parla di circa 800 milioni di euro di debito totale, e anche lì è stato fatto questo acquisto a debito, diciamo usando la stessa società come garanzia. Ora io semplifico molto, insomma, sì, più sì, o meno però il meccanismo è questo, non ci andiamo lontano al di là di quelle che possono essere le complicazioni finanziarie, più o meno il sistema è questo. si parlava per esempio di un debito molto grosso anche dell'Arsenal, di circa 350 milioni, però andando poi a guardare nei conti della società si vede che questo tipo di debito in realtà non è un debito secco, ma è un debito, si dice, come investimento in conto capitale, cioè è stato fatto per costruire il nuovo stadio. Quindi sì, è un investimento per il futuro e si attende un certo ritorno, per cui ha una qualità di debito meno grave rispetto a quello che può essere, diciamo, il debito di Liverpool o del Manchester, che abbiamo evocato. Il Manchester ha appunto 800 milioni di debiti che dovrà in qualche modo pagare. Certo, finché continua a vincere campionati e Champions League ad avere un grande seguito a livello internazionale. Sì, a meno che l'UEFA, in questo caso l'UEFA, ma poi anche la FIFA, non decidano di fare un salto di qualità e quindi dalle minacce di passare poi ai fatti. Ne parliamo tra un minuto circa, dopo gli aggiornamenti del traffico. Che strada fa? Sull'autosole, per un tamponamento tra due mezzi pesanti da poco risolto, restano 4 km di coda da smaltire tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna. Rallentamenti per un incidente anche sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia in direzione di Ancona. Per lavori invece le code sulla 22 del Brennero verso il confine con l'Austria tra Nogarole Rocca e Verona Nord e più a nord tra Affi e Alavio. Difficoltà per lavori anche in Sicilia sulla 18 Messina-Catania all'altezza della barriera di San Gregorio verso Catania e sulla tangenziale di Catania all'altezza di Mister Bianco verso Messina. In città a Roma per lavori urgenti si sono formate code sulla tangenziale est della capitale verso San Giovanni dalla via Salaria e chiusa la corsia di sorpasso. Sulla 26 dei trafori è infine da poco riaperto al traffico l'innesto con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravelona-Toce, rimasto chiuso per l'intera mattinata per il recupero di mezzi coinvolti in un incidente. È tutto, prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa. A tempo di sport. Torniamo in onda in questo giro verso i muri del pianto europei, no? Da un punto di vista economico. E arriviamo in Spagna perché la Spagna non è certamente in una situazione debitoria complessiva, credo, almeno come quella della Premier League, adesso ce lo dirà Marco Bellinazzo, però qualche segnale inquietante c'è anche lì. Ci sono squadre di primo livello della Liga, tipo il Santander, l'Almeria, il Betis di Siviglia, il Deportivo. Quindi squadre di primo livello che non hanno ancora trovato sponsor. Se gli sponsor non ritengono più appetibile il prodotto Liga, beh, insomma, vuol dire comunque, Marco, che un segnale è comunque. In Spagna noi abbiamo una situazione particolare legata, diciamo, all'azionariato popolare che sostiene grandi club come il Barcellona. Anche lì le spese folli in qualche modo vengono divise tra tutti questi azionisti, per cui, diciamo, c'è meno bisogno di indebitarsi con le banche, ma anche lì la situazione è rosea. Però appunto la mancanza di sponsor in squadre comunque di un buon livello indica che qualche problema c'è, cioè, un riflesso immediato, insomma, della crisi economica. E si pensa poi che una squadra importante come il Valencia un mese fa ha dovuto far causa all'ente, diciamo, che fa un po' da patrocinatore, cioè il Valencia Expert, perché non ha pagato i 6 milioni, insomma, che ogni anno gli versava come contributo. E insomma 6 milioni per il Valencia non è che sono una cifra particolarmente elevata. Se ha avuto bisogno di andare in causa per richiederli, insomma, evidentemente la situazione comincia a essere preoccupante anche nella penisola iberica. In Francia la situazione è mediamente, insomma, più tranquilla, però per esempio il Paris Saint-Germain aveva legato a doppio filo a un fondo statunitense, Colony Capital, che ha subito molte perdite, insomma, in queste settimane, per cui anche lì i tifosi parigini sono abbastanza preoccupati, insomma, sulla campagna di rafforzamento della squadra. Domanda interlocutoria prima del gran finale potrebbe essere questa. Spulciando appunto tra tutti questi documenti che hai sfogliato, hai trovato già tracce in Europa della finanza creativa? Cioè, almeno questo siamo riusciti nel calcio, intendo, siamo riusciti a esportare gli spalma perdite, queste prodezze non strane, oppure per ora no? Per il momento sono un prodotto tipico, diciamo, dell'inventiva italiana, insomma, l'acquisto, anche se c'è questa formula di cui abbiamo parlato qualche settimana fa dell'acquisto dei giocatori in leasing, che si è un po' sviluppato, tipo Batista della Roma è un esempio, insomma, in cui viene pagata una piccola parte per il primo anno di stipendio al calciatore e poi si fissa una quota di recupero se il calciatore avrà avuto un rendimento adeguato. Capito, capito. Per arrivare alla domanda finale, insomma, quella che chiude un pochino e che dà un senso a tutto questo discorso, al di là della curiosità di sapere poi che alla fine è un po' tutto il mondo è paese. La domanda è questa, parte da Platini e dalla sua entrata a piedi giunti all'indomani della finale Coppa Campioni, cioè tutti stavamo celebrando questa spettacolosa finale tra Manchester e Chelsea, e Platini se ne uscì, lui che non era abituato a mettere il piede cattivo, se ne uscì con un'entrata un po' altina sul ginocchio dicendo ma io però in futuro sognerei delle finali di Coppa tra club meno indebitati, insomma, no? E indubbiamente fu per l'appunto un'entrata gamba tesa. Adesso il segretario dell'UEFA Taylor e altri ancora stanno incalzando in questa materia. Ora, la domanda grosso modo è, secondo te stanno facendo qualcosa davvero per cominciare a mordere oppure è un abbaiare alla luna che poi alla fine lascerà il tempo che trova? C'è la consapevolezza del problema. Proprio Taylor, che il segretario generale della UEFA, ha citato un dato, non facendo nomi, ma più o meno i nomi sono quelli che abbiamo fatto noi. Ci sono società che hanno debiti di 3-4 volte superiore al giro d'affari. Questo significa che non si può andare avanti in questo modo. Certo. Come se ne esce? Da un lato, Platini lo ha detto, con la minaccia, siccome non si può far nulla con i singoli campionati nazionali, l'UEFA non può dire agli inglesi o agli spagnoli quanto le squadre devono essere indebitate per poter essere ammesse alle campionati nazionali, si potrebbe creare questa sorta di sbarramento. Se le squadre sono indebitate più di un certo più una certa percentuale su quello che è il loro patrimonio, non saranno più ammesse alle coppe europee. Questo può essere evidentemente un elemento che disincentiva a indebitarsi troppo. Un'altra delle soluzioni che è stata delineata in questi giorni è quello dei tetti salariali, cioè bloccare, come avviene in alcuni campionati professionistici americani, quello che è il monte ingaggi, insomma, in modo da equilibrare le risorse a disposizione di ciascuno. Però più fattibile la prima, comunque, no? Assolutamente, se noi pensiamo che il campionato professionistico dell'hockey su ghiaccio americano prevede che oltre il 90% delle risorse vengano distribuite equamente tra tutti i club. Certo. Ora voi potete immaginarvi, insomma, le lotte che sono in Italia sui diritti televisivi, quanto poco, diciamo, lasciano ben sperare in questa, diciamo, nell'applicabilità di questa soluzione qui da noi. Sì, difatti, questo è oggettivo. Potremmo chiudere questo spazio con un ascoltatore che credo che voglia intervenire su questa materia, preceduto da una domanda che arriva da Omar da Bologna, che è un, diciamo, un cliente affezionato, perlomeno con i messaggi, che domanda: se la Roma davvero non riesce a dare a Unicredit i 130 milioni di euro di cui si è parlato l'altro giorno, cosa succede immediatamente a livello societario e sportivo? Assolutamente nulla. Diciamo che ci sono questi debiti, riguardano i rapporti tra Unicredit e la Roma, ma non riguardano per il momento, diciamo, la possibilità che la Roma continui a giocare. Ma neanche il 31 dicembre, questo, cioè la risposta sarà la stessa il 31 dicembre. Potrà cambiare qualora cambieranno le regole a livello internazionale e verranno recepite in Italia, per cui si stabiliscono dei tetti massimi di indebitamento delle società. Oggi le società, se ne hanno debiti per esempio con il fisco contributivi, possono avere delle penalizzazioni. Certo. Sulla struttura societaria invece, diciamo che c'è un maggior spazio. Pensiamo che quasi tutte le società italiane, l'Inter, il Milan, sono indebitate, dovrebbero, come dire, essere, certo, escluse. Potrebbe essere veramente grave poi a quel punto applicare in maniera ferrea queste regole. Ha chiamato Maurizio da Parma. Buongiorno. Buongiorno direttore. Non credo. Buongiorno Maurizio, lei è partito male. Provi a migliorare subito. Beh, noi cerchiamo di migliorare subito, sì, però con tanto affetto, perché insomma io la considero il giornalista per eccellenza. Guardi, io la ringrazio, ma non continui così. Quindi ha una domanda? Sì. Sì, faccia il bravo, dai. Guardi, io seguo molti campionati, diciamo, di eccellenza e dilettanti. Sì. Qui io penso che sia uno scandalo vero clamoroso. Ci sono giocatori, atleti, che vengono a prendere 80-100 mila euro all'anno. Io mi chiedo, poi ci meravigliamo dei presidenti come Moratti, tra l'altro ero un tifoso interista, poi mi sono schifato di questo calcio, perché ci sono condizioni incredibili, perché chi ha i debiti non dovrebbe partecipare alle competizioni europee, invece partecipano tutti tranne quelli che non hanno i debiti. Mi chiedo, chi segue a livello finanziario, come fa a pagare i giocatori a livello di eccellenza in Serie D 100, 120 mila euro, 80 mila euro l'anno? E questo penso che sia lo scandalo vero del calcio. Non è l'unico, Maurizio, grazie del suo intervento, mi perdoni, sono stato a mia volta un po' brusco, però lei dovrebbe conoscere le regole del club, anche queste sono regole a modo loro. Marco, che... Ritorniamo al discorso di prima, se uno vuole spendere i suoi soldi pagando i calciatori e costruendo una bellissima squadra anche nelle serie minori, è liberissimo di farlo. Poi come faccia, insomma, dobbiamo girarla al fisco questa domanda, evidentemente. Introiti che ti permettono di pagare questi stipendi. Questo è un bel modo, no? di passarla all'ala. C'è una seria polemica anche in Francia che riguarda un problema, questo sì direi politico, assai più di quello invece che ha riguardato l'Italia Sofia. Perché? Perché ieri sera la Francia ha giocato allo Stade de France, quindi in casa sua, contro la Tunisia, era un'amichevole, l'ha vinta 3-1, due gol di Henry, poi tra l'altro vi darò l'aggiornamento delle quotazioni dei gol segnati da Henry in nazionale, però è successo che è stata fischiata la Marsigliese ed è stata fischiata pesantemente. Allora, stamattina il primo ministro francese Fillon a radio RTL ha definito insultante per la Francia e per la nazionale francese i fischi all'inno nazionale appunto prima di questo Francia-Tunisia. Gli organizzatori e quindi la federazione avrebbe dovuto interrompere l'incontro, non far disputare la partita, perché quelli che fischiano un inno nazionale devono essere privati dell'incontro cui vogliono assistere. È intervenuto anche il presidente Sarkozy, che ha convocato per oggi il presidente della federazione francese Escalette. In seguito li ha definiti scandalosi incidenti avvenuti ieri sera allo Stade de France. Incidenti in realtà poi pare non ce ne siano stati, incidente è stato fischiare la Marsigliese. Dopodiché è intervenuto Laporte, che è l'ex commissario tecnico del rugby francese e che adesso fa il ministro dello sport, e ha detto: smettiamolo di essere ipocriti, i fischi alla Marsigliese allo Stade de France c'era già stati con l'Algeria nel 2001 e con il Marocco nel 2007, stavolta con la Tunisia, quindi evidentemente si tratta semmai di non giocare più a Parigi le partite contro le nazionali magrebine. Ci spostiamo a Lecce e per la prima volta, io credo, in una vigilia azzurra, tra le interviste che contano del prepartita c'è quella al questore della città che ospita il match, il questore di Lecce per l'appunto. Abbiamo un flusso informativo capace di prevenire qualsiasi criticità, siamo in contatto con le altre questure e ci stiamo predisponendo per il meglio. Tra le predisposizioni per il meglio c'è la notizia appena arrivata che i cancelli dello stadio di Via del Mare di Lecce saranno aperti molto prima, e cioè alle 17 anziché alle 18 come era stato già stabilito con un amplissimo margine per un fischio all'inizio alle 20:50 come era stato stabilito in un primo tempo, per consentire, leggo, capillari controlli che saranno effettuati dalle forze dell'ordine ed evitare che si crei calca ai tornelli. C'è in linea Domenico, ha chiamato da Prato, buongiorno. Buonasera. Dica. Senta, si parlava prima, con il signore ha telefonato per quanto riguarda gli ingaggi dei giocatori dilettanti. Sì. Penso che, per esempio, se un io sono un supporter dell'Interista, se un giocatore come Ibrahimovic, che prende insomma un sacco di soldi, la società non glieli desse, ora sembra una cosa utopistica, cioè dove va a giocare questo? Se non glieli dà nessuno, dove va a giocare lui? Se il Manchester non glieli dà, oppure i club italiani non glieli danno. Cioè il problema grosso secondo me del calcio è proprio quello, cioè proprio questi giocatori che prendono un sacco di soldi. 10 milioni di euro netti sono più di quasi 20 miliardi, cioè è questa l'assurdità. Cioè è chiaro che poi alla fine tutto il giocattolo si romperà, perché sì, gli sponsor cominciano a non sponsorizzare quelle squadre, le televisioni si accorgeranno poi che gli abbonamenti magari calano, le televisioni in pagamento. Ma lei dice, Lei dice, io credo che questa rana, sinceramente, io le mie previsioni le ho sbagliate tutte, perché credevo che la rana sarebbe scoppiata molto prima di adesso, invece mi pare che continui a gonfiarsi e che non ci siano tracce. Poi è ovvio che se arriva se arriva come la si teme, e speriamo invece che non arrivi una crisi economica mondiale, globale, allora il discorso cambia, ma senza quella, e quindi speriamo che non succeda, io credo che ci sarà sempre qualcuno che a quel giocatore darà qualche soldo, cioè qualche milione di euro in più di quello che sarebbe stato logico dargli e che quegli altri gli avrebbero dato. Però queste sono leggi di mercato abnorme che nel mondo dello sport ci sono sempre stati, e non sono dei fenomeni inediti. Possono essere nuove le proporzioni, o forse sono nuove le cifre assolute, ma invece le proporzioni più o meno sono sempre state quelle. Federic ha chiamato da Torino. Buongiorno. Chiamo da Treviso. Da Treviso? Sì. Dica, no, mi spiace, ho letto male io, mi dica. Il discorso è quello: se alcune società, come già sta succedendo, fanno fatica a pagare i stipendi ai giocatori, sapendo che la nostra zona, l'ho sentito dire da voi, sono diventato mercati per le scommesse di società estremo orientale, non c'è il rischio che qualche giocatore in difficoltà economica accetti Bustarelli e altre vicende pur di tenere il suo tenore di vita, mancando la liquidità della società? Cioè, della serie portiamoci avanti con, non so, un giornalato, chiamiamo Le Carré, o chiamiamo uno di questi grandi giallisti a occuparcene. Cioè, secondo lei ci sarebbe pure il rischio che io credo che se un giocatore, non so sinceramente cosa rispondere, ma insomma, se un giocatore è leale, che guadagni un po' di più o che guadagni un po' di meno, questo rischio non c'entra. Io a certe sciocchezze che ho letto sia pure stampate su libri di case editrici prestigiose, che ho letto recentemente, ho sfogliato per la verità recentemente, tipo grandi combin che riguardano nazionali di primaria importanza in grandi manifestazioni come europei e mondiali, sinceramente non credo. Poi per carità, tutto può essere, ma credo che ci sia molto millantato credito, più di quanto non ci sia arrosto. Poi ogni tanto, insomma, l'esperienza dimostra che qualche arrostino c'è. Però abbiamo appena finito di dire che questi calciatori guadagnano troppo, se dobbiamo cominciare a preoccuparci che forse guadagnando meno potrebbero diventare più corruttibili, allora dobbiamo davvero preoccuparci. Potrebbero prendere esempio dai politici, che i loro emolumenti continuano a aumentarseli, ma la corruzione invece pure, quindi ecco, magari faranno così. Angelo ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Dica. La invidio per la sua vagatezza nell'affrontare certe argomentazioni. Io volevo soltanto porre, se mi consente, una rettifica a quanto è stato detto poc'anzi. Quando ho sentito, sono sobbalzato, che la Roma avrebbe 130 milioni di debito, ed è estremamente falso. La S Roma ha chiuso il bilancio, che si può tranquillamente controllare su internet, in attivo di qualche decina di miliardi. Non so bene da dove esce fuori queste voci. Forse Italpetroli, che è la holding in cui la Roma è inserita, ha 130 milioni di euro da pagare entro il 31 dicembre. Sì, imputabili e riconducibili alla S Roma, comunque. Assolutamente no. Italpetroli non ha solo la Roma come esternazione delle sue attività, è poliedrica, policentrica, insomma. La Roma è una delle società di Italpetroli, insomma. Sì, sì. Cioè, lei mi sta dicendo che la situazione di bilancio della Roma è florida. Io sto dicendo che la Roma ha chiuso l'anno finanziario, come credo che possa essere, io l'ho visto su internet, S Roma. C'è appunto IT, lo vede in attivo, quindi non è assolutamente che la Roma debba dare 130 milioni di euro, sono sobbalzato, non è assolutamente vero. Io ho paura che sia di più, Angelo, comunque presto, ma non perché ne abbia piacere, ma perché perché così è, ma presto le riconvocherò Marco Bellinazzo, che nel frattempo ha riguadagnato il secondo piano, perché al Sole 24 Ore hanno, in questi giorni soprattutto, hanno anche altro da fare, e vedremo di, insomma, di definire questa storia, che temo però stia nei termini in cui ci raccontavano prima. Un ascoltatore ancora, poi abbiamo qualche altro capitolo, oppure sentiamo subito Lippi e la sua precisazione sul razzismo e quindi sulla sua marcia indietro rispetto al DVD che aveva promesso, per cui aveva dato la sua disponibilità a Monio Vadia. Sentiamo Lippi. Ho sentito anche che io salirò sul palcoscenico a parlare di nazismo, a parlare di antifascismo. No, questo non ci sto. Io sono 40 anni che faccio questa carriera, non mi sono mai mischiato politicamente, mai una volta, e mai lo farò fino al termine della mia carriera. Ho parlato con il regista Monio Vadia, lui ha espresso parole belle sulle cose che ha letto di me riguardo al razzismo e mi ha chiesto se ero disposto a dirle in un DVD che poi lui con la moglie avrebbe diffuso nelle scuole. Stop, chiuso, non abbiamo parlato di altro, e gli ho dato assolutamente la mia disponibilità, perché sono cose educative, che io sono contrario a qualsiasi tipo di forma di razzismo. Fin qua Lippi. Max da Roma suggerisce all'ascoltatore precedente, dà il seguente consiglio per iscritto: anziché guardare il sito della Roma, provi a leggere il Sole 24 Ore. Questo non è un promo, ripeto, è un ascoltatore di Roma che si chiama Max, che l'ha appena scritto. A tempo di sport. La data di oggi, il 15 ottobre, nella storia dello sport, ricordata da Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 ottobre 1983. Chiudendo al terzo posto il Gran Premio del Sudafrica, Nelson Piquet si laurea per la seconda volta campione del mondo di Formula 1. Nell'ultima prova stagionale, il brasiliano della Brabham viene agevolato dal ritiro degli avversari diretti, Alain Prost su Renault e René Arnoux su Ferrari, entrambi costretti a uscire di scena per problemi al motore. Davanti a Piquet, sui due gradini più alti del podio del Gran Premio del Sudafrica, si piazzano due italiani. Il successo va a Riccardo Patrese, altro pilota della Brabham, seguito da Andrea De Cesaris su Alfa Romeo. Il 15 ottobre è anche il giorno tristissimo dell'anniversario di Gigi, della morte di Gigi Meroni, che accadde 41 anni fa in un incidente stradale assurdo a Torino. C'è traffico in studio oggi, non soltanto quello che sentite dall'autostrada, perché si è riscaraventato a bordo Marco Bellinazzo. Perché? Perché insomma, al Sole ogni tanto qualcuno ha la radio accesa, magari anche qualche vice direttore, ex direttore di questa radio. Insomma, morale, finisce che Marco Bellinazzo non vorrebbe rispondere, perché sennò sembra una polemica. C'è stato questo ascoltatore romano che dice: la Roma è un utile, leggetevi il sito della Roma. Ora, tra le tante letture possibili, anche quella del sito della Roma potrebbe essere una, Marco, però... No, la questione che volevamo precisare, cioè, riguarda proprio la questione, la differenza fra utili, debiti, indebitamento. Quello di cui abbiamo parlato noi è l'indebitamento bancario, finanziario nei confronti di Unicredit. Non abbiamo toccato i dati relativi al bilancio, quindi all'attivo o al passivo del bilancio di quest'anno. Molte delle società di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, anche lunedì, hanno un utile quest'anno. Abbiamo parlato dei debiti che hanno nei confronti con le banche o delle perdite, diciamo, subite sul mercato azionario. Quindi non ci siamo addentrati nel capitolo bilancio delle singole squadre, quella è una cosa che faremo nelle prossime settimane magari. Volevo soltanto precisare questo, perché è lo stile, insomma, del Sole 24 Ore, quello di essere precisi sui numeri, insomma. Sicché sul sito della Roma risulta una situazione patrimoniale, ripeto, sì, quello è l'attivo, esatto, di cui non abbiamo parlato, che non tiene per conto il momento dell'esposizione nei confronti, mi sembra di rara chiarezza, e credo che l'ascoltatore romano, insomma, ce ne sarà grato, credo. Speriamo di aver fatto il nostro lavoro bene. Grazie Marco. Torniamo in collegamento con... No, io sentirei a questo punto la vigilia di Casiraghi. Perché? Perché non c'è soltanto l'Italia Maggiore che gioca stasera, anzi è di gran lunga più importante la partita che l'Under 21 gioca in Israele, perché è senza appello. Dopo lo 0-0 dell'andata, l'Italia l'Italia deve almeno pareggiare per 1-1, salvo per evitare l'eliminazione. Sentiamo Casiraghi. Il campo non si sta lì fermo, insomma, durante la gara ovviamente ci si muove, quindi non sono posizioni statiche, non è quello. L'importante è, ripeto, è giocare con la giusta convinzione e la voglia di vincere la partita. L'allenatore è sempre sotto esame, sempre comunque, quindi non è un problema che ovviamente mi tocca in questo momento, insomma, voglio dire, è chiaro che è una partita importante perché ti permette di andare a fare una fase finale di un europeo, è altrettanto vero che è una partita difficile. Casiraghi, ha chiamato Loris da Genova, buongiorno. Buongiorno Garantini. Dica. Io mi volevo ricollegare a quello che, di cui si parlava con il suo ospite per riguardo questo al lupo che la UEFA vuole fare nei confronti delle grandi squadre indebitate. Lei stesso, e io sono pienamente d'accordo, diciamo che la vera Champions League inizia a marzo, questo perché partecipano tante altre squadre meno rinomate. Quindi io temo che l'UEFA non andrà oltre queste cose, perché è chiaro che lei stessa troverà difficoltà a rinunciare d'amblée a squadre che portano cassa, che fanno ascolti per semplici e puri principi di questo genere. È chiaro che le belle parole sono una cosa, poi mettere in pratica la faccenda e piazzare una Champions League con il Basilea o il Bate Borisov diventa un'altra cosa, con tutto rispetto. Loris, ho l'impressione che lei abbia seriamente ragione. Trovo però che siano comunque dei segnali interessanti questi, e cioè non accettare. Poi fa parte, no? Questo richiamo di Taylor, preceduto da altri, fa parte di una, non dico una battaglia, perché ha ragione lei, una battaglia sarebbe troppo, contro questi grandi club che poi contribuiscono a sostentare, no? Anche l'UEFA. Sarebbe troppo una battaglia, però insomma una messa a punto direi almeno sì, e fa parte, dicevo, di un quadro più ampio, perché ci sono in mezzo anche altre tematiche conflittuali, per esempio l'identità di una squadra, il minimo di rispetto di un'identità nazionale attraverso, beh, poi blatterava, vecchissimo e ignobile gioco di parole, addirittura di un 6+5. Forse ci si dovrà accontentare di meno, ma insomma studiare una formula che la UE possa accettare senza tradire lo spirito della libera circolazione dei lavoratori prima o poi dovrebbe essere perlomeno un obiettivo, mettiamola così. Da Roma ha chiamato Franco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Salve, allora, due cose. Anch'io sono romano, però di sponda bianco celeste, quindi volevo chiedere cosa ne pensate dell'operazione che ormai è portata avanti da alcuni anni dal presidente Lotito, che nonostante alcuni aspetti un po' discutibili, folcloristici, che lo hanno reso anche un po' inviso a molti tifosi biancocelesti, in realtà, dal punto di vista economico-finanziario, credo abbia compiuto un'operazione a dir poco esemplare, riportando anche la Lazio ad alti livelli. Con 23 anni di sconto, non dimenticherei questo aspetto. Però per una legge che esisteva e che poteva essere applicata. Sì. Punto 2, è stato nominato Taylor, ho letto delle sue dichiarazioni qualche giorno fa in relazione alla Major League Soccer americana, considerata dove per la prima volta le squadre di calcio esistono, hanno degli utili di bilancio, ma dove tutto ruota intorno agli stati di proprietà, che qui in Italia non riesco ancora a capire perché non si riescono a fare, visto che i soldi ci sarebbero. Non si capisce chi è che li fermi. A Roma sappiamo che è il CONI, ma è possibile che Lazio e Roma non possano avere il proprio stadio soltanto perché al CONI non sono in grado di fare un business plan adeguato senza le due squadre? Del resto Wembley e i lavori stavano costando troppo, hanno chiamato una società americana di marketing e sono riusciti a sistemare e a trovare i fondi. Possibile che in Italia non si debba avere, a Lazio e Roma debbano rimanere squadre di medio-alto livello e non di livello top solo perché il CONI non è in grado di fare questo? Grazie. Grazie a lei Franco. Io per carità, Lotito ha fatto delle cose molto ma molto significative anche in campo economico. Io credo che finora si sia battuto meglio, perché era ancora più difficile contro i suoi tifosi, cioè contro la parte peggiore della tifoseria laziale, subendo ricatti e subendo minacce che sta forse continuando a ancora subire nonostante i risultati già ottenuti. Questa mi sembra la parte ancora più significativa, perché lì non c'erano sconti possibili, mentre lo spalma eccetera su 23 anni rimane una delle pietre miliari della ridicolaggine italiana, di cui poi Lotito ha giustamente approfittato, ma non è certamente stato lui, è stato il governo di allora. 14:55:50, sicché grazie a Flavio Suardi in redazione, a Filippo Aureggi in regia, appuntamento a domani ai commenti sulla doppia partita Italia Under 21 di stasera.